semplicemente, semplicemente. Eh sì, eccomi qua anche oggi, buon pomeriggio e bentrovati, mercoledì 8 maggio 15 e 16, rigorosamente in diretta su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme, in mia compagnia fino alle 17 circa, minuto più, minuto meno. Oggi devo dire una giornata, sì, un po' così, c'è il sole, poi va, viene, ritorna, poi c'è fresco, insomma, non si capisce più nulla, però dai, ci siamo quasi, finalmente forse questa benedetta estate sta per arrivare. E allora io intanto vi ricordo subito i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste, anche perché no, per farmi un semplice saluto. Vi ricordo il nostro sito dal quale potete seguirci in diretta streaming, che è il www.crmepiradio.it, e da dove poter fare anche le vostre richieste. Basta andare sulla casellina, scrivere il titolo della canzone, il nome dell'autore, poi tac, arriva tutto in diretta qua sui nostri schermi, sui nostri computer. E poi naturalmente vi ricordo per i vostri sms il 335-56-37251 e ancora lo 0921-92-32-92. E vi ricordo ancora che potete seguirmi in diretta streaming, già l'ho detto, ovvio, sulla nostra pagina Facebook. Mi raccomando, se non siete ancora tra i nostri contatti, basta andare su Facebook o scrivere CRMP Radio e poi andare a cliccare mi piace sulla nostra pagina, così anche voi entrerete a far parte della nostra grande famiglia. Allora, io ho detto tutto, quindi direi di partire e di cominciare con la bella musica. E ne ho pronta una, ma una tosta, bella, proprio di casa nostra questa, sì, perché, e beh, andiamola ad ascoltare. I've been around the world, but never find the right girl. The one to call my sugar, the one to call my lover. I mean the right one who can love me for who I am and love for what I got. Caruso Valentino, let's take this music to another level. Oh, yeah, oh, yeah, oh, oh, yeah, oh, yeah. Caruso e Valenziano, grandi DJ, grande anche questo pezzo che sicuramente sarà uno dei tormentoni di questa estate 2013 che presto arriverà. Già comunque ci ha contagiato questo ritmo, bella. Bravi sempre loro. E naturalmente salutavo Rambo sulla canzone di Caruso e Valenziano. Un passo me ne vado per sempre, un

time you know, you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show them why you work. Make them go as you shoot across the sky. Doccia gelata, infatti, in casa Perry. Il padre dell'intransigente predicatore Kate Hudson ha bollato sua figlia come figlia del diavolo. La pop star è stata soggetto di un attacco durissimo da parte del papà per i suoi testi audaci come versi lesbici della sua hit I Kissed a Girl, così come per i suoi abiti e per le movenze sul palco, e ha esortato la sua congregazione a pregare per Katie. La notizia viene dai tabloid inglese The Sun, che riferisce alcune parole dette dal predicatore durante un sermone in una chiesa californiana. La gente infatti si chiede come io possa predicare se ho messo al mondo una ragazza che cantava di baciare un'altra ragazza. Dice: ero al concerto di mia figlia, c'erano 20.000 persone, guardavo questa generazione e la loro esaltazione. Sembrava quasi una chiesa. Sono rimasto lì e ho pianto e continuato a piangere. Amano e adorano la cosa sbagliata. Per ora da Katie e dalla madre nessuna replica a queste durissime parole. Aia, aia, aia. Chissà cosa risponderà Katie a questo attacco, diciamo, del padre, che un po' la vede come posseduta dal diavolo, e tutto, insomma, i suoi messaggi, i testi delle sue canzoni non sono così per lui positivi per le nuove generazioni. Boh, aspetteremo, vedremo cosa risponderà, insomma, la figlia. E intanto noi continuiamo con la bella musica, andiamo avanti. Condurre un'esistenza di sforzi, tallonando la chimera di una melodia composita, gremita di arzigogoli rarissimi, che poi alla fine scopri che ti mancava quella nota sola, bellissima. Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota, una canzone poco nota, che si fa con una nota, e quella nota è questa, è la canzone mononota. Vuoi cambiare il ritmo, vuoi cambiare la velocità, vuoi cambiare l'atmosfera, vuoi cambiare gli accordi, la puoi fare maggiore, minore, eccedente, diminuita. Vuoi cambiare il cantante, vuoi cambiare l'argomento, vuoi cantarla da solo, vuoi cantarla tutti insieme con il coro, vuoi farla fare all'orchestra mentre ti prendi una pausetta. Ottimo questo caffè. Vuoi cambiare la lingua, for example, you can sing it in English, auf Deutsch, en français, en español, in cinese, un cidunci, trinci, quante cose che puoi fare senza cambiare la nota.

è solo un meccanismo che ci scatta dentro, solo un istinto che però chiamiamo sentimento, come quando ti ho sentito avvicinarti a me, come quando ti ho sentito avvicinarti a me, ed il cuore forte ha cominciato a battere, ed il cuore forte ha cominciato a battere, come la risata contagiosa di un bambino, come quando tutto sembra un po' più semplice. E se invece fosse solo un senso di essere qui, l'unica ragione per cui valga la pena di fare tutto il viaggio e comprendere quello che comunemente noi chiamiamo amore. E se fosse l'unico motivo che c'è, il significato ultimo per cui vivere, fino in fondo il viaggio e comprendere quello che comunemente noi chiamiamo amore. Hey, don't care, I'll always be with you. Don't care, we can all see the truth. But there's one thing I have to say, don't worry about yesterday. Yes, I'll be your man, you better understand, and I promise that my love you can't forget. Cause hey, this is my time, love will never die, yeah. E se invece fosse solo un senso di essere qui, l'unica ragione per cui valga la pena di fare tutto il viaggio e comprendere quello che comunemente noi chiamiamo amore. E se fosse l'unico motivo che c'è, il significato ultimo per cui vivere, fino in fondo il viaggio e comprendere quello che comunemente noi chiamiamo. E su questa canzone saluto Isabella che ce l'ha richiesta. A proposito di Max Pezzali, beh, fa un regalo molto speciale ai suoi fan. Infatti il 4 giugno esce Max 20, che contiene 5 inediti e 14 duetti con amici e colleghi come Claudio Baglioni, Bennato, Giovanotti, Fiorello, Grignani, Neck, Raff, Ramazzotti, Antonello Venditti e tanti tanti tanti altri. Il punto di forza del progetto, oltre agli inediti, sono appunto i 14 duetti di Pezzali con i grandi artisti della scena musicale italiana nei brani che hanno segnato la carriera artistica di Max. Infatti saranno reinterpretati Come mai, Gli anni, Sei fantastica, Sei un mito e ancora Tieni il tempo e poi tante tante altre. Quindi non perdete il 4 giugno quindi l'uscita di questo album, appunto Max 20, per tutti gli appassionati, per tutti i fan di Max Pezzali, appunto. E noi andiamo avanti, 15:46, siete ancora in diretta su CRM più Radio all'interno di Semplicemente Insieme. Check that out, what they playing, that's my song, where my drinks, I've been waiting much too long, and this girl in my lap passing out, she's a blonde, the last thing on my mind is going home, from the window, to the wall. This club is jumping, till tomorrow. Is it daylight? Or is it nighttime? 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4. We gon' tear the club up, up, up, up, up, up, up, up. Tell me, say they, yo. Daylight come and we don't wanna go home. Yeah, so

ve ne va. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby, we go. Together, baby, we go, we go. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. Cause I finally found, I finally found you. Il pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Un eterno amore, ma di eterno. festeggiare. Dove sei? Che passo il tempo ad immaginarti. Una parentesi estemporanea, faccio finta di non capire, fino a che mi accontento non sento più niente. La gente stanca di lavorare si mette allegria col televisore, e a tuo modo la mia allegria sei tu. Quanto mi capita di sbagliare, sempre vicino all'imperfezione. Quanto mi manchi, quanto, quanto mi manchi. Non credevo di starci male, ma l'hai detto quel giorno al mare, che ti ho visto passare, guardarmi il destino in un attimo ci ha fregati. Impossibile da trattenere, come il mare nel gran bicchiere, il ruente passione per cui in un istante è sbocciato un eterno amore. Ma di eterno non aveva niente il nostro amore. Maledetto quel giorno, ma di eterno non aveva niente la nostra storia. Maledetto quel giorno, non credevo di starci male. Maledetto quel giorno al mare, che ti ho visto passare, guardarmi il destino in un attimo ci ha fregati. Impossibile da trattenere, come il mare dentro un bicchiere, l'irruente passione per cui un istante è sbocciato un eterno amore. Ma di eterno non aveva niente il nostro amore. Maledetto quel giorno, di eterno non aveva niente la nostra storia. Maledetto quel giorno, ma di eterno. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Stuck on the dark side, reaching for daylight, nothing wrong with all right, but that ain't me. Suggestions, answers to questions, all that they told me was let it be. 'Cause all my life, you know I've been dreaming about a way to find a way out. You know, they can't hold me down. You said a man ain't meant to fly, but I'm reaching up for the sky. Can't seem to do right, but I keep trying. It seems they wanna knock me down like fire, still I rise. It won't happen this time, no. I've made up my mind. You know I was dreaming about a way to find a way out. You know, they can't hold me down. They said I'm gonna be meant to fly. Reaching up for the sky. You know, they can't hold me down. Da da da da da, da da da da da, da da da da da, yeah. Mountains in my way, I can't lie. At times they seem too high, but I just climb. I told them that I won't stop till I reach the other side. To be free, so take your chains off me. I'm gonna turn it around. Nothing can stop me now. Some things are meant to be. This time it's about me. 'Cause all my life, you know I've been dreaming. Fino alle 17 circa. Adesso parliamo di, sì, di lavoro, di, che è un po' in questo periodo di crisi manca per tutti. E arriva da una notizia, no, da un'azienda di New York che ha offerto ai suoi dipendenti, no, un aumento di paga, pensate un po', del 15%, se però accettano di farsi tatuare il logo dell'azienda sul loro corpo. Beh, più di 40 su 800 hanno già accettato. Il titolare dell'azienda, che si occupa di compravendite immobiliari, spiega che certamente è lui che paga, ma non è stato lui comunque ad avere l'idea. L'idea infatti è venuta a un dipendente che si è recato appunto in azienda in ufficio dal dirigente e aveva tatuato il logo di questa, diciamo, dell'azienda. Lui da lì quindi sarebbe nata l'idea. Molti hanno accettato perché prendere soldi e rinunciare, perdere soldi e rinunciare a guadagnare molto di più facendo lo stesso lavoro, e invece quindi altri dimostra insomma di essere attaccati all'azienda, e quindi hanno dimostrato questo attaccamento all'azienda facendosi appunto tatuare il logo. Beh, l'idea insomma non è... Beh, sinceramente non mi farei tatuare un logo dell'azienda sul corpo, perché poi non è una cosa che va via, insomma, così bisogna fare un intervento per togliere. Capisco che siamo in un momento di crisi, che insomma un aumento non fa mai male, però sono un po' così perplessa. Voi cosa ne pensate? Beh, fatemelo sapere, mi raccomando. Vi ricordo i numeri: lo 0921 92 32 92 e ancora il 335 56 37 251. E vi ricordo ancora che potete seguirmi in diretta streaming sul nostro sito, che è il www.crmepiradio.it. E noi continuiamo e andiamo avanti con te. Why do

questa nostra stagione di giorni insieme ad esplorare noi. È perfetta così, ma non c'è vero amore che non abbia bisogno di un po' di cure. Per diventare quel che siamo, perfetta così, questa nostra stagione di vita insieme a innamorare noi. È perfetta così, ma non c'è vero amore che non abbia bisogno di un po' di cure. Guarda in quanti corrono spingendo il freno e non riescono più a prendersi la mano. Fermi tra abitudini e speranze vane. Se non ami l'amore, poco niente alla fine di male di noi. Perfetta così, ma non c'è vero amore che non abbia bisogno di un po' di cure. Stupenda così, questa nostra stagione di vita insieme a raccontarci noi. Perfetta così, ma non c'è vero amore che non abbia bisogno. E su questa canzone saluto Gaetano che ci segue sempre. Ciao Gaetano, un bacione grande. Adesso parliamo di capelli, sì, perché sentite un po', sembrerebbe essere stato scoperto un rimedio ai capelli bianchi. Quindi presto i capelli bianchi potrebbero essere soltanto un ricordo. Si potrà quindi essere mori anche a 80 anni con una cura che ricolora il capello. Tutto quindi grazie ad una cura sperimentata per la vitiligine. La ricerca è stata condotta dall'University of Bedford. A far sbiancare le chiome praticamente è un eccesso di stress ossidativo con conseguente accumulo di perossido di idrogeno nel bulbo pilifero dei capelli. In particolare gli studiosi hanno osservato un gruppo internazionale di 2411 pazienti affetti da vitiligine di differente livello, che poi comunque è una patologia che provoca chiazze bianche su pelle, capelli, peli, ciglia e sopracciglia, scoprendo che ad alcune forme della malattia corrisponde un'evidente diminuzione della capacità antiossidanti da parte di alcuni enzimi e quindi il massiccio accumulo di stress ossidativo. Quindi adesso si può avere un rimedio, garantiscono quindi gli autori che hanno sperimentato, quindi una crema topica a base di un particolare enzima che si attiverebbe sotto i raggi ultravioletti di tipo B per ripigmentare capelli, sopracciglia e pelle privi di melanina. Quindi addio ai capelli bianchi, adesso è arrivata la cura, quindi questa crema. Quindi addio brizzolati, addio capelli bianchi, quindi a 80 anni anche tutti con coi capelli scuri. Bella, no? Interessante questa notizia che arriva da fonti attendibili, quindi non diciamo così, noi diciamo tutte notizie vere. E noi adesso continuiamo e andiamo avanti ancora con la musica e su questa canzone. Saluto Peppe Pippo che in questo momento mi sta seguendo. Ciao Peppe, spero di rivederti presto naturalmente. E poi volevo ricordarvi che l'associazione Rica Marte di Cefalù cerca modelle, quindi aspettate che arrivo adesso, arrivo io, ci vado io, sì. Per informazioni comunque potete rivolgervi presso il laboratorio che si trova in via Vittorio Emanuele accanto al Molo. Mi raccomando, quindi cercano nuove modelle. name I saw tore down these walls. Black one way and find another. You know you'll always be discovered. If it's me you choose, I can't lose. I'm in love with you. If you love me too, yeah. Don't ever change. I stay the same. We'll be swimming in the same direction. And we'll never lose this connection. Nothing they can do. Stop this army of two. We're marching to the future. Here it's me and you. Soldiers, follow my lead. CRM di Radio è semplicemente insieme. Oh, Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh-oh, things you never say to me, oh-oh, tell me that you've had enough of our love, our love. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, you still lie so close to me. Oh, there's nothing more than empty sheets between our love. Su questa bellissima canzone di Pink. Adesso parliamo di scarpe, sì, che sono il sogno un po' di tutte noi donne, soprattutto di scarpe quindi col tacco alto di 12 centimetri, meno male, quindi sono il nostro sogno, però diciamo possono fare anche male, diventano anche una tortura per i piedi. Una delle ultime tendenze infatti però per riuscire a portare dei tacchi altissimi senza avere fastidi è praticamente la punturina, arriva la punturina di acido ialuronico nella pianta per creare una sorta di ammortizzatore e non sentire più alcun dolore. Wow! Un'operazione rapida che consente di mantenere quindi la comodità senza rinunciare all'estetica. L'idea è nata anni fa nelle cliniche di bellezza di New Delhi e ora comincia ad essere molto richiesta anche nel bel paese. Questo piccolo intervento consiste appunto nell'iniettare sotto la pianta del piede dell'acido ialuronico macromolecolare, il quale consente di creare dei cuscinetti artificiali che ammortizzano il dolore provocato dalle altezze vertiginose. L'intervento dura circa 20 minuti ed elimina subito la sensazione di bruciore comunemente associata ai tacchi alti. Direi, fanno male questi tacchi alti, però sono bellissime, insomma, da vedere, da portare meno perché fanno male, però il costo di questo intervento è all'incirca di 600 euro, robetta proprio, e ha un effetto che dura 9 mesi, dopodiché i cuscinetti quindi si riassorbono. L'applicazione dell'acido ialuronico macromolecolare in campo medico veniva utilizzato principalmente per il corpo, per correggere i difetti strutturali, gli anestetismi cutanei e per riempire avvallamenti, migliorare cicatrici e anche post trauma. Successivamente la sua applicazione si è estesa anche in ambito oculistico e ortopedico, e oggi aiuta quindi le donne che vogliono sembrare più alte a loro agio anche su zeppe e tacchi vertiginosi. Quindi per chi volesse fare questo interventino, beh, dura 9 mesi, cioè il costo 600 euro, voglio dire, sono tanti. Però chi bella, come dire, vuole apparire deve un po' soffrire, quindi chi vuole portare questi tacchi alti senza avere tanti problemi, adesso arriva questo interventino di acido ialuronico. Va bene? Voi lo fareste mai? Fatemelo sapere, mi raccomando, io attendo con ansia tutte le vostre risposte, fatemi sapere se lo fareste mai. Io, insomma, non c'avevo un po' di paura a fare queste cose, però... Condannate a non lagnarsi mai, il maschio innamorato se lo fa, è un meccanismo inafferrabile, se solo invece di scarpe con i tacchi. Yeah! De Rosi, che dedica questa canzone alla sua amica Alessandra. Un bacione a tutte e due, ragazze. When the world starts to get you down and nothing seems to go your way and the noise of a maddening crowd makes you feel like you're going to go insane, there's a glow of a distant light calling you to come outside, to feel the wind in your face and the skin, and it's here I begin my story. Semplicemente insieme su CRM Happy Radio. Woohoo! Noi brave ragazze siamo stanche di aspettare e abbiamo ali per volare anche da sole. Noi brave ragazze abbiamo sogni che ti farebbero arrossire, decidiamo noi se le brave ragazze abbiamo occhi per guardare e mani calde all'occorrenza ad allungare. Noi brave ragazze ci sappiamo consolare, a far l'amore siamo sempre noi a dire sì. E tutto gira intorno a questo sole, ci basta poco per ucciderti. Ci puoi ispirare ed ammirare, ma guardare non toccare, che siamo sempre noi a dire sì. Tiriri, tiriri, tiriri,

cose che devo ricordarmi di dire quando davvero sicura sarò. Ma anche se fosse, ritrovale poi. Invitami a bere un bicchiere di sole. Senza nemmeno parlare, che gusto ha. Costringiamo la notte a non fare rumore. Abbandoniamoci al giorno. Prima canzone in programma per oggi all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in mia compagnia. Con me vi ritroverete venerdì, sempre a partire dalle 15 sino alle 17, sempre con tanta buona musica. Volevo ricordarvi che l'associazione Rica Marte di Cefalù cerca delle modelle, quindi per informazioni potete rivolgervi presso il laboratorio che si trova in via Vittorio Emanuele accanto al Molo. Non mi resta che augurarvi buon proseguimento con i programmi di CRMP Radio e noi naturalmente ci risentiamo venerdì. Baci baci e come dico sempre io, fate i bravi, ciao! Semplicemente. Semplicemente.